A tempo di sport di Giovanni Capuano. Buon pomeriggio, e allora ci siamo emozionati con il rugby. Davvero fino a pochi minuti fa lo avete sentito nel GR, una partita in cui l'Italia è andata a un passo da un risultato storico, e cioè pareggiare o addirittura vincere contro una grandissima del rugby mondiale, pareggiare o vincere contro l'Australia, che due volte è stata sul tetto del mondo. Ci siamo andati davvero vicinissimi, abbiamo perso 22-19, ma a meno di un minuto dalla fine con Orchera abbiamo avuto il calcio che avrebbe potuto regalarci il pareggio. Orchera lo ha sbagliato, ed è un peccato perché era una realizzazione anche abbastanza semplice, almeno a giudicarla così. Probabilmente ha pesato anche l'emozione per il momento storico che il rugby italiano si è trovato a vivere. Poi, per intendere a quale è stato il livello di paura che gli australiani si sono presi, hanno guadagnato il pallone e l'hanno sparato fuori così per mettere fine alla partita e al timore di essere sconfitti dall'Italia. Torneremo però a Firenze, torneremo a parlare di rugby, perché va celebrata questa impresa sfiorata dalla nostra nazionale. Io ringrazio e saluto intanto Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo i contatti per parlare con noi: 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci anche sulla nostra pagina di Facebook A Tempo di Sport trattino Radio 24, oppure possiamo chiacchierare insieme anche su Twitter, l'account è @CapuanoGio. Un'informazione in diretta che riguarda la Serie B è su Cittadella Verona, gara che è stata sospesa per nebbia quando mancavano 8 minuti alla fine della partita. Il risultato era 2-1 per il Cittadella e dunque bisognerà giocare questi ultimi 8 minuti. C'era troppa nebbia, gara sospesa. Verona che rischia di cadere nella giornata in cui il Sassuolo, vincendo per 3-1, ha ritrovato la testa della classifica, una testa della classifica persa ieri con il successo del Livorno, e dunque in questo momento Sassuolo che torna primo in classifica e alle sue spalle ci sono il Verona e il Livorno. Verona, lo ripetiamo, che sta perdendo questa partita, gara però che non si è chiusa oggi. Però è questo, è anche il fine settimana di Milan-Juventus, e allora noi vogliamo parlare di quella che oggi è la vetrina del nostro calcio, per numero di tifosi, di appassionati che seguono in televisione queste squadre, per tutto quello che hanno rappresentato nella storia del nostro calcio e in particolare negli ultimi 20 anni. Ebbene, vogliamo parlare di questo Milan-Juventus con il presidente della Lega Calcio, Maurizio Beretta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Va bene l'etichetta presidente di un po' il meglio che il calcio italiano può offrire? Ovviamente non ci stiamo riferendo alle questioni di classifica, alle questioni tattiche. È evidente che questo è un Milan diverso da quelli che l'hanno preceduto. Beh, comunque diciamo che certamente è una delle poche cosiddette, diciamo, classicissime che abbiamo nel nostro campionato e che sempre ha una grandissima capacità di attrazione, di mobilitazione di tifosi appassionati. Quindi sono squadre come dire, con un palmarès impressionante, e quando si incontrano evidentemente come dire, danno vita a un evento vero e proprio. Il fatto che ci si arrivi con questo distacco record, l'hanno scritto in molti questa settimana, mai in un girone d'andata le due squadre si erano incontrate con 17 punti di distacco, è un po' la fotografia del momento anche del calcio italiano, che è un momento fisiologicamente di crisi. A me piacerebbe più definirlo un momento di passaggio. Ma è un momento, diciamo, in cui il calcio italiano in parte si sta, diciamo, ripensando. Lo si è visto, diciamo, nelle politiche di questa estate. Io penso che sia una fase, come dire, di grande saggezza e soprattutto di, come dire, di voglia importante di costruire il futuro, no? Perché si sta lavorando con un obiettivo vero, che è l'obiettivo, come dire, di assicurare sostenibilità nel tempo alle società e quindi sostenibilità nel tempo al calcio italiano. e questo credo che sia un dato estremamente, estremamente positivo. Peraltro è coerente, come dire, con il quadro generale di cui dobbiamo tenere conto, parlo evidentemente della situazione economica generale, ed è molto coerente con quanto si sta muovendo, diciamo, in Europa con le logiche del fair play finanziario. Quindi io penso che si stia facendo il calcio italiano un grande lavoro. Devo dire che anche diciamo, gli episodi europei di questa settimana ci dicono che quelli che, come dire, un po' precipitosamente, sì, c'è un'inversione di tendenza. Abbiamo avuto due episodi molto importanti, ma la Juventus si è battuta una delle squadre considerate non solo più importanti, più prestigiose, ma di quelle, come dire, dove, diciamo, c'è più possibilità di, diciamo, di investimenti, di spese faraoniche, e il Milan che anticipatamente ha, come dire, ha conquistato il passaggio, la qualificazione. Quindi, c'è presidente in Europa un'inversione di tendenza, perché a differenza di quanto scrivono in molti che continuano a puntare la Germania e quel terzo posto nel ranking UEFA che per almeno 4-5 anni dobbiamo metterci in testa è assolutamente irraggiungibile, ma proprio per come è costruito il sistema del ranking, beh, per la prima volta dopo tanti anni alle spalle delle tre grandissime c'è l'Italia, il che significa che non solo non stiamo più perdendo spazio e punti nei confronti di Francia, Portogallo, Olanda, chi ci seguiva, ma addirittura ad esempio su Portogallo e Olanda stiamo guadagnando, e stiamo guadagnando tanto, il che ci consentirà per il gioco degli scarti nelle prossime stagioni di non scivolare al quinto o al sesto posto come eravamo oramai destinati a fare, e quindi questo è certamente un segnale che c'è stata una presa di coscienza ad esempio anche sul modo di affrontare l'Europa League. Voglio dire, da un lato è importante e penso che sia un segnale molto positivo. Onestamente devo dire non ho mai pensato che quel rischio, diciamo, di ulteriore scivolamento fosse reale, perché insomma comunque i valori in campo hanno una loro sostanza, hanno una loro continuità e credo non possano essere sottovalutati. Ripeto, si dimostra che la capacità di costruire pezzo per pezzo un progetto complessivo, come è stato, se vogliamo dirlo così, per il calcio tedesco, è un meccanismo che poi nel medio termine premia. Io penso che il calcio italiano stia guardando a questo tipo di modello e sta ponendo le premesse, come dire, per innestare una grande tradizione su la capacità un po', diciamo, di guardare al futuro e di anticipare tendenze che probabilmente si affacciano all'orizzonte. Certo, oggi stanno facendo un po' discutere, Presidente, le parole di Branca e dell'Inter, anche se in realtà sono parole dettate anche da un accordo con il giocatore, e cioè questa scelta di tenere per il momento Sneijder fuori dal campo in attesa di capire se il suo contratto può essere riscritto, spalmato, riscritto al ribasso, poi ognuno vorrà dare l'interpretazione che vuole, però mi interessa capire se è un ulteriore segno di presa di coscienza e, diciamo, probabilmente un atteggiamento anche diverso da quelli del passato in cui le società erano abbastanza schiave di questi contratti. Ma guardi, io ovviamente non entro nel merito delle singole situazioni, che è giusto restino nell'ambito e nelle dinamiche tra la singola società e il singolo giocatore. Io quello che penso è che serva anche nel mondo del calcio dare dei segnali equilibrati ma di forte capacità di innovazione. Lo abbiamo fatto riscrivendo l'accordo collettivo con i calciatori in modo da riequilibrare in maniera importante il rapporto contrattuale tra le società e i giocatori. Abbiamo cominciato a riaffrontare il tema, ad esempio, dei diritti d'immagine legati all'inizio, diciamo, all'album delle figurine, ma che poi sta cambiando proprio il rapporto fra le società e i propri dipendenti, perché poi i calciatori questo sono. sono dei, in fondo dei dipendenti, seppure professionisti, unici diciamo nel loro campo. Sì, ma sta soprattutto, secondo me, come dire, la realtà sta ponendo a tutti diciamo una grande verità, e che bisogna affrontare i problemi non semplici che ci sono in una logica, diciamo, di condivisione e non di contrapposizione. Cioè gli oneri non possono essere tutti su una sola parte, cioè sulle società. Bisogna insieme costruire, diciamo, modelli che consentano ad un calcio come quello italiano, che comunque continua a godere di un grande prestigio internazionale e continuerà ad averlo in futuro, di avere le condizioni operative per poter sfruttare al meglio questa popolarità, per poter andare a trovare nuovi mercati, per poter, diciamo, proporre a platee sempre più vaste, ripeto, un prodotto che continua ad avere una straordinaria capacità di attrarre. Certo, Presidente Beretta, ci fermiamo un minuto, notizie sul traffico, poi torniamo, parliamo un po' di diritti TV, perché in Lega è stato fatto l'accordo, però ci interessa capire nel fine settimana, e lo ripeto, in cui il calcio italiano mette in mostra il meglio di sé dal punto di vista dei numeri, quali possono essere gli sviluppi di questo mercato. Traffico. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, per sapere anche da voi a casa come vi avvicinate a questo Milan-Juventus. Ad esempio, che cosa ne pensate delle parole oggi di Berlusconi, che ha detto: Pato va utilizzato con il contagocce, però rimarrà al Milan. Scriveteci anche al 349 238 6666 oppure su Facebook a Tempo di Sport - Radio 24 o su Twitter, l'account è @CapuanoGio. Presidente Beretta, dicevamo, questa è un po' l'etichetta del nostro calcio, che, ed è stato certificato anche dall'accordo sui diritti TV per il prossimo triennio, resta un mercato da 1 miliardo all'anno. Cresciamo, come ha scritto anche il Sole 24 Ore in questa settimana, cresciamo meno rispetto a Premier e Bundesliga, ad esempio, però restiamo comunque un mercato che attrae. Ma noi abbiamo fatto comunque negli ultimi anni una crescita impressionante, quindi è chiaro che si arriva poi a dei livelli dove la cosa importante è, diciamo, mantenere, avere dei miglioramenti incrementali, mentre come dire, lavorando su voci nuove e consolidando l'esistente. Io credo che in termini assoluti, in realtà, noi vendiamo ancora i diritti meglio comunque rispetto alla Germania. Certo, la Premier League è il punto di riferimento assoluto, è un punto di riferimento assoluto soprattutto perché ha consolidato negli anni non solo una grande capacità di vendere diritti e di essere quindi seguita a livello domestico inglese, ma sì, soprattutto per i diritti stranieri. Esattamente, questa è la strada che noi dobbiamo seguire, avendo, ripeto, alcuni punti di forza, alcuni punti di vantaggio. Uno di questi è, ripeto, il fatto che continuiamo ad essere uno dei campionati più avvincenti. Ricordo che negli ultimi 3 anni hanno vinto 3 squadre diverse, si sono sempre risolti i campionati tra la penultima e l'ultima giornata, cosa che non avviene in tutti gli altri campionati europei. Ce ne sono alcuni, diciamo, con una continuità quasi stucchevole, no? Sì, stiamo parlando, io credo, soprattutto della Spagna, dove c'è questo eterno classico fra Real Madrid e Barcellona, che alla fine in qualche modo ammazza lo spettacolo, anche se poi in quei 180 minuti si tratta di spettacolo di altissimo livello. Volevo però capire, Presidente, se in qualche modo voi temete la crisi che sta anche colpendo il mercato televisivo, le difficoltà di Mediaset, in parte della Rai. Anche Sky negli ultimi mesi sta rimodulando i suoi investimenti sul mercato televisivo, e l'abbiamo visto ad esempio nell'acquisizione dei diritti dei campionati stranieri. Cioè, se anche questa non c'è il rischio che possa essere in qualche modo una bolla non più in fase di espansione? Guardi, diciamo, non analizzare quanto si muove intorno a noi sarebbe da irresponsabili, quindi è evidente che noi teniamo, come dire, molto monitorata la situazione, cerchiamo di lavorare costantemente per migliorare il prodotto, per renderlo più ricco. Abbiamo la fortuna, se vogliamo dire così, abbiamo avuto forse la lungimiranza di chiudere in tempi giusti, prima dell'aggravarsi della crisi generale, dei contratti di proiezione triennale che quindi danno alle società della Serie A certezze per quanto riguarda il triennio 2012-2015. Credo che questo sia un elemento molto importante perché consente di pianificare, di programmare, di guardare al futuro senza l'ansia del presente, e non dobbiamo evidentemente sprecare questa condizione, ma dobbiamo appunto utilizzarla per poter guardare in avanti, per pianificare meglio il futuro. Presidente, prima di salutarla da casa, 349-238-6666, scrivono come possiamo pensare di vendere meglio il nostro calcio all'estero quando ci facciamo conoscere per cori razziali e oltraggi continui agli arbitri, comportamenti maleducati dei giocatori. Abbiamo un problema di immagine, ce ne siamo accorti anche questa settimana. Voglio dire, dobbiamo evidentemente lavorare molto anche su questi aspetti, chiamiamoli culturali, che sono collegati, però dobbiamo anche dire che a fianco di episodi molto gravi e che vanno stigmatizzati e condannati nel modo più pieno, ci sono anche tanti elementi positivi. Il dato, ad esempio, comunque, che dentro gli stadi i fenomeni violenti si sono drasticamente ridotti, e questo è il frutto di una straordinaria collaborazione che si è sviluppata negli anni con l'osservatorio del Ministero, con le forze di pubblica sicurezza, con un'assunzione di responsabilità importante da parte delle società, con la diffusione di strumenti di controllo e di marketing assieme. Quindi io penso che, ripeto, i problemi non mancano mai, però non dobbiamo nemmeno mai sottovalutare la tanta strada che è stata fatta. Certo, che esiste un cammino fatto ed esiste una potenzialità. Per fare una sintesi, che 10 anni fa probabilmente, o 5 anni fa, eravamo messi peggio. Per chiudere in un flash, ho l'impressione che fra 6 mesi invece continueremo a essere senza legge sugli stadi, perché stiamo entrando oramai in campagna elettorale, non si è mossa e poi probabilmente bisognerà ripartire da zero. Qualche giorno fa c'è stato l'appello di Barbara Berlusconi al Parlamento, approvatela anche così com'è, poi proveremo a migliorarla, però mi sembra un appello anche quello caduto nel vuoto. C'è questo timore? Il timore purtroppo c'è. Io penso che, e mi auguro, condividendo al 100% quell'appello, che ci possa essere ancora un sussulto, anche perché manca veramente pochissimo, nel senso, la legge è al Senato per la terza lettura, basta veramente mezzo pomeriggio di lavoro. Quindi ma lei ha l'impressione che ci sia questa volontà, che ci sia la volontà politica, o che in questo momento la politica sia distratta da altre priorità, alcune assolutamente lecite e legittime, perché ci sono anche altri temi all'ordine del giorno, e poi c'è il gioco che oramai ci porta verso le elezioni? Ha l'impressione che in un qualche modo il momento buono sia passato? Ma guardi, purtroppo il momento buono non l'abbiamo mai avuto, nel senso che abbiamo sempre dovuto fare un lavoro in salita contro ogni logica e contro ogni aspettativa. In realtà sembra che gli stadi a parole li vogliano tutti, poi quando arriviamo a come fare per rendere possibile questa affermazione, abbiamo avuto spesso dei fuggi incomprensibili. Io penso che il testo che noi abbiamo e che è stato approvato in una prima lettura dal Senato, emendato dalla Camera e ora di nuovo al Senato, sia un testo comunque che ha un suo equilibrio di fondo, che consentirebbe di fare degli impianti nuovi all'altezza degli altri paesi europei senza costare un euro al cittadino. Per questo, a rischio, di passare per un ingenuo, voglio ancora sperare, c'è l'auspicio che poiché tecnicamente, ripeto, l'approvazione è ancora possibile, basta un lavoro di pochissime ore nelle commissioni competenti del Senato per un'approvazione in sede legislativa, quindi è assolutamente possibile, è nelle mani, diciamo, del potere decisionale del Senato. Quindi tecnicamente lo spazio c'è, il mio giudizio è che difficilmente ci si arriverà, perché mi sembra un po' distratta la politica in questo momento su questa esigenza, però diciamo si può lanciare un ultimo appello. Assolutamente sì, perché questo, come dire, è ormai evidente e non è un tassello, è la pietra miliare che ci serve per proiettare il calcio italiano negli anni futuri. Cioè senza questo si rischia di ritardare sine die il rilancio del calcio italiano, si fa il danno a un'industria che, se non sbaglio, è la quinta industria del paese. Ma guardi, i dati sono molto evidenti, nei paesi in cui ci sono stadi di nuova generazione e di proprietà delle società, gli introiti da stadio rappresentano un terzo delle entrate delle società. In Italia siamo a meno della metà. Allora, la verità è che se non si vuole e non si approva questa norma e non si consentono alle società di avere stadi di nuova generazione, noi, come dire, stiamo costruendo un meccanismo che allarga il divario di risorse economiche, che quasi sempre poi si traduce in un divario di risorse sportive, tra le squadre italiane e le squadre degli altri paesi. Io mi chiedo, lo dico in maniera, ripeto, serena, ma è quello che vogliamo? Cioè, vogliamo penalizzare le squadre del grande calcio italiano per, come dire, piccoli distinguo su meccanismi tecnici dell'articolato della legge, o vogliamo oggi chiudere, diciamo, questa legislatura con una norma importante che consenta poi nei prossimi anni, perché per realizzare uno stadio servono alcuni anni, non sono operazioni che si fanno in poche settimane, in modo da avere nei prossimi anni un percorso che vede le società impegnate come sono nel costruire le condizioni di equilibrio per il presente e per il futuro, le componenti che stanno ragionando in maniera sempre più, diciamo, collaborativa, proprio per cercare di costruire insieme un percorso di crescita del calcio italiano. Questo, ripeto, è una pietra angolare che è fondamentale. Mi auguro davvero, poiché tecnicamente si può fare, come dire, si decida che ci sia lo scatto in zona cesarina, esatto, di avere alla fine uno scatto, certo, vincente per tutti, non solo per le società di calcio, ma per tutto il sistema, perché ricordo che le società di A trasferiscono 100 milioni di euro l'anno a tutte le altre diciamo serie, sia professionistiche. Sì, per non parlare poi delle ricadute anche in termini fiscali e comunque di quanto porti questa, che ripeto è un'industria, al di là dell'aspetto ludico, tecnico, tattico, gli arbitri, su cui poi ci divideremo anche per tutto il fine settimana, resta un'industria che poi paga le tasse e comunque contribuisce al sistema paese, all'economia italiana, esattamente come fanno tutti gli altri comparti, tutti gli altri settori. Grazie Presidente Beretta. Grazie a tutti voi, grazie per l'opportunità e complimenti per la trasmissione. Grazie Presidente. Noi ci fermiamo rapidamente perché a San Paolo sta succedendo di tutto, Massa fuori dopo il Cuno, soltanto dodicesimo e Alonso si è salvato davvero per il rotto della cuffia, decimo, il più veloce fin qui è Hamilton, in difficoltà anche Vettel, quinto. Pubblicità. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi a tempo di sport trattino radio 24 su Facebook, chiocciola Capuano Gio su Twitter. Beh, allora sentiamolo questo branca su Snyder, che di fatto è fuori rosa perché la società gli ha chiesto di allungare il suo contratto che scade nel 2015, quindi di fatto di ridursi l'ingaggio. Snyder non sembra d'accordo e comunque non ha ancora dato una risposta, e allora per il momento, ha detto Branca, non gioca. Sentiamolo. La situazione di Wes, che fa parte della nostra storia e che è un giocatore a cui tutti noi vogliamo bene, è che stiamo discutendo da tempo l'eventuale e per noi necessaria modifica contrattuale di Wes. In relazione a questa vicenda Vogliamo lasciare tutto il tempo necessario al giocatore e al suo staff di valutare bene quelli che sono i termini della nostra proposta. La decisione tecnica e della società di non utilizzare in questo frangente il giocatore va ricondotta all'attesa di maggior serenità e di maggior chiarezza. Questa è la posizione dell'Inter, non so cosa ne pensate voi, però secondo me si tratta di una posizione borderline, perché in passato altri giocatori hanno avuto problemi nel momento del rinnovo del contratto con le proprie società e qualche volta è stata usata anche qualche parola come mobbing. Io non penso sia questo il caso, anche perché par di capire che anche il giocatore con il suo entourage siano d'accordo sul prendersi questo momento di riflessione, però è certo che quel contratto di sicuro i dirigenti dell'Inter non l'hanno firmato con una pistola puntata alla tempia e quindi è anche difficile poter sostenere che un giocatore non gioca, non scende in campo finché non accetta di ridiscutere quel contratto con una proposta al ribasso. Oggi è stato anche il giorno della seconda visita di Berlusconi a Milanello. Ha parlato di tante cose, ha parlato di Milan-Juventus ovviamente e ha parlato anche di Pato, perché ieri sera quella sua ammissione "Pato adesso è un problema" aveva suscitato scalpore. Sentiamo oggi come l'ha spiegata Berlusconi. Mi spiace perché lui era, come ho già ripetuto tante volte, il campione numero uno, e perciò speriamo che ritorni ad esserlo, perché secondo me è soltanto un fatto fisico che però può comportare naturalmente una insicurezza da cui deve uscire. Ieri l'ha definito un problema, come si risolve? È un problema perché il fatto di tutti questi incidenti continuati lascia tutti col fiato sospeso quando entra in campo. E credo che anche lui si domandi se il suo fisico reagirà bene o meno. E quindi in effetti è un peccato, perché Pato è veramente il gioiello. Ma come possiamo essere sicuri che El Shaarawy non farà la fine di Pato? Scrive un amico al 349-238-6666. E c'è il timore che il lavoro di potenziamento sui muscoli dell'italo-egiziano possa produrre qualche danno. A proposito ancora di Pato e dell'ipotesi di una cessione a gennaio o di uno scambio con Balotelli, ancora Berlusconi. Beh, ma non c'è nessuno che prende un giocatore che è reduce da una serie così grave di infortuni e che non ha dato prove di essere completamente ristabilito. Quindi non è assolutamente sul mercato. Può essere ceduto in prestito se qualche squadra si fa avanti? Credo deve stare qui, lui è del Milan e qua noi crediamo di essere la cura migliore per lui, di poterla fare noi. Questo Berlusconi, 800 24 00 24, per sapere che cosa ne pensate. Intanto però apriamo una parentesi sui motori, intanto vi dico che è in corso il Q2, Vettel, Hamilton, Raikkonen, Maldonado, Rosberg, Alonso è in difficoltà in questo momento, è ottavo, Massa decimo. Noi però andiamo a Monza con Andrea Dovizioso, che sta disputando il rally di Monza, ma col quale ci piace pensare di poter gettare uno sguardo anche alla prossima stagione della MotoGP. Buon pomeriggio Andrea. Ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio Andrea, che è a Monza insieme a Valentino Rossi, a Jorge Lorenzo per il rally di Monza 2012, è anche il ricordo di Marco Simoncelli. Che cos'è, una passione, un gioco, ti stai divertendo? Ma è un insieme di cose, prima di tutto è un piacere correre per team NGM Cusery, ci ha dato questa possibilità a tanti piloti e è un onore, anche perché questa gara viene fatta per un premio finale che verrà devoluto all'associazione di Simoncelli, quindi è il primo punto che mi ha fatto decidere di correre. Poi Kuzeri ci ha dato la possibilità di correre con una DS3, la miglior macchina del mondo, quindi è eccitante, è bellissimo poter guidare con queste macchine, anche se non ho esperienza, e ci stiamo divertendo tanto. Ma tu sei di quelli che dicono veramente tanto. Certo, sei di quelli che dicono a fine carriera mi piacerebbe provare seriamente con le quattro ruote. Ma con le quattro ruote me la cavo abbastanza bene, mi diverto tanto, quindi molto probabilmente sì. Però rally è un'altra cosa, non è proprio il rally di Monza, non è non rispecchia tanto i rally, i veri rally sono molto più complicati, ci vuole tanta esperienza. Certo, questo è un gioco più che altro e abbiamo spiegato poi ha anche un significato che va oltre. Andrea, questa è una parentesi tutt'altro che di vacanza nella tua stagione, vieni dai test della tua presa di contatto con la Ducati, mercoledì vai a RS della Frontera, non è ancora tempo di vacanza? No. Fortunatamente no, c'è ancora del lavoro da fare, c'è un bellissimo progetto di questi due anni con Ducati e c'è tanto lavoro da fare, siamo tutti consapevoli di questo, quindi piedi per terra e siamo pronti per lavorare, per cercare di capire e cercare di capire quali punti vogliamo migliorare. Io ho letto che hai definito uno shock, ma in senso positivo il passaggio alla Ducati. No, nel senso tutti preparati al peggio, invece non mi è sembrata così negativa. Poi è normale che non posso aver capito troppo perché non ci sono state le condizioni per poter provare vari setup, spremere la moto. Il tempo è stato abbastanza buono, ma non è troppo indicativo. Speriamo di trovare buon tempo in 3 giorni e 3. Allora ti dico che le previsioni dicono tempo sereno, soleggiato, 15 gradi di temperatura, dovresti capire qualcosa di più della tua Ducati. Sì, ma ci saranno dei cambiamenti e tanto lavoro da fare, quindi l'importante per me è cercare di capire il più possibile la moto di adesso, ma non penso sarà la moto che useremo il prossimo anno in gara, quindi cercare di capirci tra ingegneri e cercare di capire una moto tanto diversa da quella che ho usato quest'anno. Mi pare di capire che non l'hai trovata così difficile da domare come ti era stata descritta. Ma anche il rumore, sentirlo sopra la moto fa quasi paura perché è molto aggressivo, molto acuto. Invece quello che ti trasmette in pista è sensazione migliore, quindi è stata una sorpresa positiva. A te gli ingegneri cosa hanno chiesto quando ci sei salito la prima volta? Cosa si aspettano da Andrea Dovizioso? Non posso aspettarci niente perché non abbiamo avuto le possibilità di fare certi tipi di lavoro. Ci saranno dei test importanti per cercare di capire, poi vedremo. Però è bello ed è giusto anche che venga detto, io ho letto che tu l'hai detto anche in altre interviste, per favore abbiate pazienza, noi abbiamo un progetto di 2 anni, non aspettatevi subito una risposta, ma si può costruire qualcosa di importante. È un po' questo il messaggio che tu vuoi lanciare anche ai tuoi tifosi? Assolutamente sì, perché se ci capiremo e lavoreremo bene ci vorrà tempo per riuscire a migliorare la situazione, quindi il livello è veramente tanto alto sia a livello di moto sia a livello di piloti, quindi per riuscire a giocarsela per posizioni importanti ci vuole un po' di tempo. Riusciremo a lavorare bene. Tu senti che questa avventura in Ducati può essere il momento importante, il momento di svolta della tua carriera, al di là che l'obiettivo magari non arriva subito, però questa è l'occasione? Si vedrà. Se ho scelto di fare questo progetto è perché ci credo, poi chi vivrà vedrà. Senti Andrea, e poi ti lasciamo, questo è anche il weekend in cui si chiude il mondiale di Formula 1, ferrarista o no? Ma certo che sì, ferrarista ci tengo, poi anche per Alonso ha fatto una stagione esagerata, è stato molto bravo e si è comportato da campione, quindi sarebbe bello da un punto di vista per Alonso, ma secondo me la Ferrari dovrà lavorare ancora più duro perché i concorrenti sono veramente forti. Sarebbe bello, e sarebbe bello anche in vista di una Ducati che vince, magari con un pilota italiano, magari non quest'anno, lo abbiamo detto. Grazie ad Andrea Dovizioso. Grazie, ciao a tutti. E insomma, speriamo, anche perché a San Paolo le cose non stanno andando benissimo. È appena finito il Q2, il più veloce è Vettel, Red Bull, quindi pole virtuale, e i due ferraristi si sono salvati per il rotto della cuffia. Nono Alonso e decimo Massa, che è dentro soltanto per 80 millesimi. Saluto Paolo da Milano, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Paolo, un minuto di traffico, poi riparto da lei. Traffico. Non so voi, ma io inizierei la danza della pioggia, perché se le cose restano così è davvero difficile per Alonso e per la Ferrari riuscire a strappare domani il titolo mondiale a Vettel e alla Red Bull. Lo ripetiamo, Alonso nono, Massa decimo dopo il Q2, ma sono rimasti dentro le qualifiche davvero per il rotto della cuffia, mentre Vettel vola, anche Hamilton e la McLaren stanno andando velocissimi. Adesso sta per iniziare il Q3, però situazione davvero disperata per la Ferrari. Paolo da Milano, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo fare un brevissimo intervento sulla vicenda Snyder all'Inter. Premetto, dica. Io sono un tifoso milanista e non so perché, ma mi torna alla mente un'analogia con quello che è successo da noi con Pirlo. Il primo anno di Allegri abbiamo vinto il campionato praticamente senza Pirlo e secondo me in quell'occasione il Milan si è convinto che poteva farne anche a meno, e poi si è visto che l'anno successivo invece è stata un'assenza secondo me fondamentale. Non vorrei che l'Inter si stesse convincendo che è vero che poi i risultati gli danno ragione in questo momento, che può fare a meno di Snyder, può vincere qualcosa di importante che senza Snyder e poi ritrovarsi nella stessa situazione del Milan. Sì, ho l'impressione che stia succedendo qualcosa di simile, perché credo ci sia, al di là del problema dello stipendio di Snyder, che evidentemente è pesante perché siamo oltre i 6 milioni di euro netti all'anno, Snyder in questo momento è il giocatore più pagato di tutta la Serie A, però credo ci sia anche la valutazione da parte della società che in questo momento, ma già dall'anno scorso, Snyder non sia più centrale per il progetto tecnico dell'Inter. Già un anno fa Snyder di fatto era finito sul mercato e lui stesso ha raccontato come questo passaggio gli era stato comunicato ufficialmente da Branca e dal club, poi Snyder è rimasto. Però io credo che l'uscita allo scoperto di Branca questo pomeriggio serva davvero per cercare di capire nell'orizzonte temporale di qualche settimana se Snyder può aderire a un progetto anche economico dell'Inter e di Moratti. Non accadesse, io credo che a gennaio le strade del giocatore e del club saranno destinate a separarsi e che Stramaccioni non si strapperà certamente i capelli dalla testa. Grazie, andiamo allora a Firenze per raccontarvi il meraviglioso pomeriggio del rugby italiano. Buon pomeriggio Flavia. Sì, buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio a Flavia Carletti, che saluto. Sei con qualche ospite? Sì, siamo qui allo stadio Artemio Franchi con Michele Risso, uno degli azzurri che oggi ha giocato contro l'Australia. Purtroppo il risultato è stato sfavorevole per l'Italia per 19-22, però l'Italia diciamo che ha giocato bene, soprattutto il secondo tempo. Com'è andata la partita, Michele? Sì, esatto, come dici tu, secondo tempo siamo riusciti a mettere in luce un gran bel gioco e a mettere appunto in difficoltà l'Australia. Peccato che alla fine non siamo riusciti a raccogliere punti fondamentali che probabilmente ci avrebbero portati alla vittoria. Ecco, perché, e lo diciamo agli amici da casa, è finita 22-19 per l'Australia e a meno di un minuto dalla fine è successo questo che sentiamo. Sì! È dentro! No. Arriva... No, niente da fare, c'è stato il boato. La voce è quella degli amici di La 7 che hanno raccontato questa partita. Flavia, siamo andati davvero vicinissimi a un risultato storico. Sì, esattamente, perché comunque i precedenti erano tutti in favore dell'Australia, come poi la partita di oggi, solo che in parziali diciamo che la media della differenza punti era più o meno intorno ai 20. Questa volta sono stati solo 3 i punti di differenza e appunto, come avete ricordato voi, l'Italia è andata vicinissima al pareggio. C'è stato questo calcio di Orchera, quanto mancavano? 30 secondi forse, qualcosa di più alla fine? Sì, esatto, mancava più o meno un minuto. Purtroppo Orchera oggi aveva un parziale di 5-5, quindi aveva messo dentro tutti i calci che aveva avuto a disposizione. Proprio all'ultimo, purtroppo, forse sono stato la distanza, la stanchezza, magari anche un po' l'azione, non è riuscito a mettere dentro quello che avrebbe portato l'Italia a pareggiare. Se vuoi chiederlo al tuo ospite, quanto vale vedere gli australiani che buttano via la palla per chiudere la partita, che è un segnale di debolezza e di paura? Sì, sicuramente motivo di grande orgoglio, però noi dobbiamo restare comunque coi piedi per terra, ricordarci che seppur di poco abbiamo perso e continuare a lavorare in questa direzione. Siamo, come ho già detto prima, siamo usciti dal campo con molta fiducia per il 6 Nazioni, sapendo che dobbiamo imporre il nostro gioco, perché se lo facciamo riusciamo a mettere in difficoltà tutti. Oggi a questa partita veniva chiesto di ripartire dai primi 60 minuti contro gli All Blacks, che tutti avevano giudicato assolutamente positivi, e di riuscire a tenere il ritmo per 80 minuti. Che voto diamo a quest'Italia? Beh, sicuramente un bel 9. Un bel 9, Flavia? Beh sì, sono d'accordo, è mancato proprio quel qualcosa che poteva essere un 10 pieno se ci fosse stata la vittoria. Possiamo anche provare a tracciare un bilancio di questi 3 test match? Beh, chi comincia? Vuoi cominciare tu, Michele? Va bene, sicuramente noi siamo partiti non benissimo, perché comunque le prime partite sono sempre le più difficili, perché vai a ritrovare un gruppo che bisogna consolidare, eccetera, il gioco non era molto fluido. Abbiamo giocato a Brescia contro le Tonga, sicuramente la più brutta delle tre partite, con un tempo anche che non ci ha aiutato. Dopodiché abbiamo fatto questi famosi 50-60 minuti con gli All Blacks, dove siamo stati alla pari, dopo però, come avete visto voi, abbiamo avuto un cedimento negli ultimi 20 minuti e oggi, pur essendo partiti magari un po' male, perché abbiamo fatto il primo tempo no, sicuramente non idilliaco, cioè abbiamo fatto un sacco di falli e errori un po' stupidi, il secondo tempo abbiamo fatto vedere una grande Italia. E come andiamo con questi risultati al Sei Nazioni? Sono un'iniezione di fiducia, sono la consapevolezza comunque che manca ancora qualcosa per fare il salto? Come ci andiamo? Beh, sicuramente con grandissima fiducia personalmente, perché abbiamo dimostrato che quando giochiamo al 100% e senza paura riusciamo a mettere in difficoltà sia gli All Blacks che l'Australia, quindi dobbiamo andare al Sei Nazioni e crederci fino in fondo tutte le partite. Flavia, proiettiamoci su febbraio e sul Sei Nazioni. Beh, esattamente, diciamo, è quello che diceva adesso Michele Rizzo. L'Italia, se giocasse così tutte le partite del Sei Nazioni, come ha fatto vedere oggi nel secondo tempo, come ha fatto vedere i 60-65 minuti di All Blacks, sicuramente può essere considerata una squadra competitiva per tutte le partite del Sei Nazioni. Magari sperare non di vincerne una, come di solito sono i pronostici per le Sei Nazioni, ma magari battersi per vincerne due o tre per ogni stagione. E anche questo sarebbe un salto di qualità. Grazie a Flavia Carletti, grazie a Michele Rizzo, domani torniamo ancora a parlare di rugby, promesso, così come torniamo a parlare di Formula 1, in corso il Q3, Hamilton, Webber, Massa, Alonso, Rosberg, fin qui nel GR il risultato delle prove di San Paolo. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, l'appuntamento con A Tempo di Sport è per domani a partire dalle 16:30, un saluto da Giovanni Capuano.